Vi ringrazio di essere venuti nonostante l'orario mattutino, ma la conferenza stampa che stiamo per affrontare è particolarmente interessante e vedo che infatti il pubblico ha risposto oltre che il mondo della stampa. Presentiamo infatti qui in biblioteca l'autonomia che cambia del senatore Oscar Peterlini, che ringrazio per essere qui con noi. Ci accompagna in questa presentazione, in questa conferenza stampa Pinuccia Di Cesaro, che è la editrice, e il nostro assessore, nonché vicepresidente della giunta, dottor Cristian Tomasini. Io sono contentissima anche perché questa è un'anteprima di un libro che sicuramente conoscerà un grande favore presso il nostro pubblico e che questa biblioteca ha catalogato e mette a disposizione dell'utenza, tanto più che la nostra è una struttura con la vocazione territoriale, un interesse particolarmente legato al territorio. E poi voglio ringraziare il senatore Peterlini perché da anni è un nostro fornitore di libri. Da anni ci regala, ci passa parecchia letteratura a titolo, ecco, così, di dono personale. Grazie. E grazie a voi di essere venuti. Allora, io non voglio assolutamente togliere la scena all'autore, no, soltanto due parole per dire qual è come dire, come si colloca questo libro. Intanto noi siamo anche noi a vocazione territoriale, come diceva la dottoressa Valeria Trevisan, perché ci occupiamo prevalentemente delle questioni che riguardano la storia locale, oltre evidentemente anche alla letteratura, ma quello che volevo dire rispetto a questo libro è che la storia costituzionale italiana ha vissuto tre momenti forti. Uno riguarda l'emanazione dello Statuto Albertino, che segna, in quel momento, segna il passaggio dalla monarchia assoluta alla monarchia costituzionale, che è come dire, l'anticamera dello Stato liberale monarchico, che sarà poi sancito con il 1861. Lo Statuto Albertino esce nel 1848. Secondo momento forte è l'emanazione, la promulgazione della Costituzione italiana, che è nel dicembre 23, viene approvata, 27 dicembre viene promulgata, 1947, e quello è il momento che segna la nascita della Repubblica italiana. Il terzo momento qual è? È proprio la riforma del titolo quinto, di cui si occupa non questo, ma questo libro che ha scritto il senatore Peterlini, perché vuole spiegare quali sono le modifiche all'interno del nostro statuto di autonomia che conseguono alla riforma del titolo quinto. Dico solo due parole: che cosa vuol dire riforma del titolo quinto? Il titolo quinto della Costituzione si occupa dei rapporti tra Stato centrale e autonomie. All'interno di questi rapporti c'è tutto quello che riguarda l'attività legislativa, l'attività amministrativa e la questione finanziaria. In che modo si modifica il nostro statuto di autonomia, che è pur esso legge costituzionale? Ecco, ce lo racconta Oscar Peterlini, al quale io cedo subito la parola. Ho preparato un paio di diapositive. Io vorrei ringraziare prima di tutto per l'ospitalità la dottoressa Valeria Trevisan e la Biblioteca Provinciale Claudia Augusta, che ci ha offerto questa opportunità. Ringrazio il vicepresidente della Giunta, Cristian Tomasini, perché ha voluto e dato l'onore di presenziare a questa opportunità di presentazione, e ringrazio soprattutto la casa editrice, qui rappresentata con la sua proprietaria e direttrice Pinuccia Di Cesaro, che ha sofferto con me la nascita di questo libro, perché come tutte le nascite non tutte sono semplici, poi ci sono le correzioni da fare, si ricorregge di nuovo, e mi ha fatto un po' impazzire, ma comunque alla fine è rimasta ancora tutta normale. Ecco, io adesso vorrei sorvolare velocemente con un paio di diapositive. Io dovrei avere, ecco questo, posso schiacciare dove? Perché devo fare velocemente, perché tutti hanno fretta. Mi scuso anche ringraziando per tutti voi amici che siete venuti, per il termine poco opportuno, ma è un termine che abbiamo scelto per la conferenza stampa. Naturalmente alle 10 di mattina poi tanti mi hanno scritto che stanno lavorando e così via. Riprenderemo qualche occasione, Pinuccia, vero, in cui si faccia anche la serata, perché sennò gli altri non possono venire, ma volevamo rispettare, diciamo così, i termini preferenziali della stampa stessa. Ecco, io oltre a questo libro ho presentato, e lo lascio qui anche, un Sonderdruck, cioè un estratto da una stampa di lingua tedesca che ho pubblicato analogo sulla Zeitschrift für öffentliches Recht, che è stato edito dal Springer Verlag a Vienna e che ho portato per opportunità a chi volesse seguirlo in lingua tedesca. Ecco, la dottoressa Di Gesaro ha già detto che la Costituzione del 48 era il secondo grande passo dopo lo Statuto Albertino, e dal giudizio che io ho potuto trarre praticamente si può dire che per quanto riguarda i diritti, le garanzie, libertà, la Costituzione italiana sempre ancora si annovera tra le Costituzioni più moderne del mondo, con garanzie molto larghe, con libertà molto larghe e anche garantiste. Per quanto invece riguarda la struttura organizzativa dello Stato stesso, è stata praticamente frenata dalla paura di potersi disgregare di nuovo l'Italia e magari in tanti staterelli dopo le difficoltà della riunificazione 1870 e quegli anni intorno. E quel poco di federalizzazione che c'era, più diciamo così decentramento che si voleva attuare e volevano attuare i padri fondatori del 48, non è stato poi fatto. Se le regioni sono state create con gli organi negli anni 70, subito dopo gli anni 70 è stato di nuovo frenato lo sviluppo con la scusa che si doveva dare delle linee comuni a tutta l'Italia per poter reggere in economia, e così praticamente le nostre regioni autonome, che pure sono nate nel 48, sono rimaste come delle macchie, come delle eccezioni di un sistema, e si pongono praticamente in un sistema opposto a quello che è lo Stato stesso. Lo Stato è più che altro dal 48 in poi, anche se erano previste queste regioni, è centralizzato, e mentre noi avevamo questo pregio di autonomia che però è costretto, queste autonomie che erano costrette praticamente sempre a lottare contro un sistema opposto. E pertanto poi negli anni 90 hanno cominciato i primi movimenti, qui ho fatto un paio di disegni, come se vi ricordate forse, come qualcuno pensava di suddividere l'Italia. Non c'era solo Miglio della Lega che voleva fare tre stati autonomi federati, poi il nord, centro e sud, ma c'era anche la rinomata istituzione di Agnelli che prevedeva un altro disegno. Però queste erano le prime proposte, poi erano anche molto attive le regioni, e la prima bozza che abbiamo visto era di Demita e Iotti, che si sono praticamente messi l'obiettivo, prima Demita poi la Presidente della Camera, si erano messi come obiettivo la modernizzazione dello Stato, poi non riuscito come al solito in Italia con la caduta del governo, continuavano a cadere i governi quegli anni, come sapete, come anche adesso non hanno migliorato di molto. Il secondo grande ripresa, a dire la verità ce n'era ancora una prima iniziale di Bozzi, e poi c'era anche il grande pensiero di Craxi, che era un po' il lume, ma io oggi volevo un po' essere veloce, perciò lo ricordo solo ancora così. La prima, poi la nuova ripresa era il 97, con la proposta della commissione bicamerale, la terza bicamerale, Bozzi, D'Alema e, no, cosa dico, Demita e Iotti, poi quella di D'Alema, che portò poi a una revisione del titolo quinto, che cade di nuovo con la caduta del governo. Però questa, a differenza degli altri, è stata risalvata, D'Alema poi è diventato Presidente del Consiglio e come tale ha ripresentato la bozza, che era un po' dal punto di vista istituzionale un po' un problema, perché con questa una bozza che era condivisa da un po' da tutte le parti politiche è stata poi è divenuta di parte della maggioranza di centro-sinistra ed è stata approvata con la maggioranza di centro-sinistra contro gli altri voti, e questo è un po' un deficit che ci è rimasto. Però dobbiamo dire che comunque sia la riforma del 2001 ha praticamente introdotto grandi passi in avanti per questa Repubblica, che non hanno trasformato l'Italia in uno Stato moderno, federale, come sono, io non parlo della disgregazione dello Stato come qualcuno magari penserebbe o avrebbe voluto o vorrebbe, no, parlo di una più moderno, più federale, come sono in Austria, in Svezia, in Svizzera o anche in Austria, in Germania, le Bundesländer, no? Però un paio di passi, anche se non è diventato uno Stato federale, l'Italia l'ha fatto, ha parificato praticamente i partner che costituiscono la Repubblica, questa è una grande novità, ha dato a tutti questi enti lo status di essere autonomi, ha una autonomia finanziaria a cui si sta lavorando adesso, questi sono gli articoli della Costituzione. E poi ha fatto una cosa molto importante, ha rivisto le competenze delle regioni e dello Stato e ha capovolto il sistema di elencazione, mentre nel passato le competenze erano praticamente tutte previste, quelle concorrenti, quelle poche, 19 competenze delle regioni erano previste ed elencate, poi c'era scritto tutto quello che non è praticamente, tutto il resto appartiene allo Stato. Questa volta si è capovolto il principio e si elencano le competenze dello Stato tassativamente nell'articolo 117,2, cominciando dalla politica estera, la finanza, le cose più importanti, la moneta, tutto quanto che riguarda, cioè, i temi centrali, e poi ha introdotto una clausola generale molto importante che è un principio, uno dei pilastri dei principi federali, qui introdotta anche in Italia, che dice: spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato, cioè la clausola generale a favore delle regioni. Così che noi vediamo che praticamente questo articolo 117 divide le competenze in tre punti, quelle esclusive dello Stato, poi elenca competenze concorrenti regioni-stato, ampliando di molto quello che prima le regioni avevano, e poi dice il residuale, tutto il resto è praticamente delle regioni. Poi c'era una nuova formulazione delle 116 quanto riguarda le nostre regioni, aggiungendo, elencandole in linea alfabetica e aggiungendo anche i titoli, i nomi nelle lingue del territorio, cioè per la Valle d'Aosta, la Valle d'Aosta, e per il nostro, per il Sud Tirolo e così via, e mettendo il principio che la regione Trentino Alto Adige è costituita dalle province di Trento e Bolzano, prima era suddivisa, sembrano piccolezze, ma è un altro principio di sussidiarietà, che praticamente gli enti più piccoli compongono quello più grande. Ma la rivoluzione vera poi sta in questo paragrafo qui, in cui mi soffermo un attimo. Questo praticamente cosa dice? Noi sappiamo che gli statuti, i libretti di autonomia, che sono questi, distribuiti sempre ancora dalla provincia, non sono stati riscritti dal Parlamento, e ne abbiamo avuto ragioni molto importanti. Perché non abbiamo riscritto? A parte che c'è naturalmente sempre difficoltà di mettere mano su un testo di livello costituzionale, concordato, concordato non solo tra le parti qui in Alto Adige Südtirol con lo Stato, ma anche con l'Austria. C'è naturalmente a Roma sempre da vedersi bene, perché se si mette in mano una legge costituzionale in un clima in cui tutti pensano che noi siamo privilegiati, naturalmente potrebbe anche essere molto pericoloso. Pertanto il libretto è rimasto come era. Ma la riforma costituzionale ha introdotto una serie di nuove competenze per le regioni normali, dicendo praticamente tutto quello che non è riservato allo Stato appartiene alle regioni. E poi dice, in una clausola che noi chiamiamo di maggior favore, dice: per quanto riguarda le speciali, gli istituti speciali, rimangono salvi tutto questo, quello che c'è scritto, però vale per queste speciali tutto quello che prevede forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite. Ecco, adesso il problema che si pone è questo: cosa sono queste forme più ampie? Cosa c'è adesso da rivedere nel libretto che noi distribuiamo anche agli studenti? Devo dirvi molto. Se uno si presenta all'esame a qualsiasi concorso della provincia o si vuole preparare sull'autonomia, con questo libretto sta leggendo un testo antiquato, molto molto antiquato. E questa era la sfida che io mi sono posto insieme alla casa editrice, di dire: scriviamo un libricino, un libro, in cui proiettiamo le novità della riforma costituzionale in questo libretto. E questo era il tema, che non era mica così facile, ma comunque l'abbiamo fatto. Nessuno dei 5 statuti, anche quelli delle due isole e delle altre due regioni di confine, non sono state praticamente revisionate. E vediamo le fonti: la nostra autonomia non si fonde più solamente sullo statuto speciale, ma è stata influenzata fortemente da questa revisione del titolo quinto, e io lo proietto praticamente come un proiettore, che vedete adesso proiettare su qui, io proietto le novità della riforma costituzionale in questo statuto. E è affascinante, perché praticamente ci sono da risolvere un paio di questioni. La prima è quella: visto che le regioni ricevono tutto quello che non è riservato allo Stato, domanda, cos'è tutto quello che non è riservato allo Stato? Non c'è scritto da nessuna parte. Cioè, adesso se viene fuori una nuova invenzione, una nuova tendenza sociale, un nuovo sviluppo economico, allora praticamente, se non è classificabile entro le competenze dello Stato, dovrebbe essere quella delle regioni. E se passa alle regioni, da noi, da chi passa? Alla regione o alla provincia? Cioè, questo era un quesito. E qui ho fatto praticamente quasi come un'analisi matematica, dicendo per esempio le competenze concorrenti del Trentino Alto Adige, cosa sono? Naturalmente le competenze previste per le regioni normali, e subito le introduciamo, perché se tutte le regioni lo ricevono, la clausola di maggior favore le prevede anche da noi, anche se qui non sono scritte, ecco, abbiamo già subito la prima differenza. Poi naturalmente dalle quelle concorrenti, che sono meno forti di quelle esclusive, dobbiamo detrarre le competenze che per lo statuto sono previste esclusive, poi dobbiamo detrarre quelle che per lo statuto sono previste esclusive per le province, e arriviamo alle competenze da ripartire tra regione e province. Poi come? Cosa appartiene alle regioni e cosa appartiene alle province? Qui ho seguito un principio che può essere discusso, che però mi pare molto logico, dicendo non possiamo attribuire tutto alla regione, perché sarebbe una violazione del principio che ormai le province sono i portatori dell'autonomia. Non sarebbe neanche giusto però attribuire tutto alla provincia su certi settori che sono riservati alle regioni. Allora ho proseguito il principio del complemento delle attribuzioni. Se per esempio la previdenza complementare è competenza della regione, che era integrativa, qui adesso con le regioni è passata a complementare, che è di, concorrente, che è di più, allora naturalmente dovrebbe passare. E questo principio di sottrazione e di aggiunta e così via l'ho applicato anche poi per le province. E vediamo qui con questa elencazione che risultano, dopo avendo fatto questo calcolo, queste nuove competenze regionali della regione Trentino Alto Adige, sempre di nuovo non scritte in questo libricino. E questo è in tedesco, e lo stesso si può fare poi per le province autonome. Anche qui risultano competenze concorrenti, ho cominciato con quelle concorrenti per un ovvio motivo, che dovrebbero essere nuove per la provincia autonoma di Bolzano, sempre non scritte in questo libretto. Altre competenze concorrenti sempre delle province autonome che ho potuto ricavare dal testo, e non voglio fermarvi tu sui dettagli. E dicendo poi cosa sono quelle esclusive, su questo abbiamo discusso prima, dicendo ma cosa sono queste materie non elencate e non riservate allo Stato? Potrebbero essere molti, praticamente tutto quello che si può immaginare, e non è, allora dico, tutte le possibili materie immaginabili. Per aiuto prendiamo i vecchi elenchi, come quello degli elenchi della Costituzione antecedente, che aveva l'elenco delle competenze regionali, quello dei vecchi statuti, quello del vecchio articolo 117, ma tutto quello che è immaginabile. Poi dovremmo detrarre le competenze dello Stato, dobbiamo detrarre le competenze concorrenti che sono elencate al 117,3, e poi dobbiamo aggiungere quello che la Costituzione stessa dice che appartiene alle regioni, come per esempio dice la sicurezza appartiene allo Stato, eccezione fatta per esempio della polizia locale. Allora sappiamo che la polizia locale deve esserci aggiunto, e questo polizia amministrativa locale c'è scritto sì. Questo vale per il commercio, lì c'è scritto commercio estero è competenza concorrente delle regioni, questo significa che naturalmente quello interno non può esserlo, allora è appartiene alle regioni. E così arriviamo con questo calcolo qui alle competenze esclusive delle regioni. Ecco, non mi soffermo su questo, devo solo dirvi che con questo metodo si arriva a queste competenze nuove, esclusive della provincia, che sono molto importanti, che non erano elencate, oltre a quelle che abbiamo visto prima, concorrenti. Ecco. Naturalmente il tutto poi nell'attuazione dipenderebbe da chi? Dipende, prima cosa, dal legislatore provinciale e regionale. E qui si può fare un appello al legislatore regionale e anche e soprattutto quello provinciale di sfruttare al meglio queste opportunità, cioè praticamente su tutte queste materie, per essere sicuri e mettere il riparo, dovrebbero farsi nuove leggi provinciali, perché altrimenti la materia è praticamente teoricamente provinciale ma non è sfruttata. Secondo punto, poi se lo Stato rileva un conflitto, e qui una grande differenza a quello che c'è scritto qui dentro, non può più, come c'è scritto qui, andarla a rinviare la legge da parte del Consiglio Provinciale che richiede una nuova trattazione, e non può neanche impugnarla davanti alle Camere, ma può solo impugnarla alla Corte Costituzionale. Così la Corte Costituzionale diventa praticamente l'ultima istanza su come suddividere. Quello che noi adesso abbiamo dal punto di vista giuridico proiettato praticamente nello statuto sottostà poi alla limitazione o alla interpretazione della Corte Costituzionale. Ci sono stati dal 2001 a adesso una fitta veramente un incredibile lavoro da parte della Corte Costituzionale, che devo dirvi, per quanto riguarda il rispetto delle del minorante, lingua e cultura è stata sempre molto attenta, mentre è chiaramente, questo si deve dire, è chiaramente visibile una mano molto rigida che ha cercato addirittura di portare indietro alla riforma del 2001 sulle competenze. E qui ho elencato un paio di esempi che non vorrei portare, ma per esempio dice, no? Da ora in poi non ci sono più tutte queste limitazioni per le regioni sui temi di competenza, no? Ci sono solo due limiti, c'è la Costituzione italiana, gli accordi internazionali e sì, tra quelli anche naturalmente l'Unione Europea. Punto, basta, non ci sono altri limiti per la Costituzione, per le regioni. E mentre qui ci sono ancora altri limiti, qui c'è scritto per esempio i principi delle riforme e poi per le competenze concorrenziali anche naturalmente i principi fondamentali delle leggi dello Stato e poi gli interessi nazionali. Allora si potrebbe interpretare dal punto di vista, diciamo così, ottimista, più largo, dice adesso sono caduti questi limiti per le regioni normali, dovrebbero, secondo la clausola di maggior favore, cadere anche per le regioni a statuto speciale. E la Corte cosa dice? Solo per farvi un esempio. La Corte dice, sì è vero, per quanto riguarda le nuove competenze assegnate alle regioni con statuto ordinario, che con la clausola di maggior favore passano anche alle regioni speciali o alle province autonome, per queste nuove competenze vale naturalmente la limitazione meno rigida, quella con questi due o tre limiti che sono Costituzione e accordi internazionali ed europei. Ma quelle competenze che voi avete già avuto prima, di cui non godono le altre regioni, pams, vi rimangono quelle cinque limitazioni che sono qui elencate. Ecco, questo è solo un esempio per vedere come la Corte ha restretto praticamente l'ambito, perché poteva interpretare anche viceversa, dicendo ormai questi limiti non ci sono più, perché si dovrebbe applicare alle speciali un limite più rigido che si applica alle ordinarie. Poi, per esempio, la Corte si è inventata, ovviamente ho inventata una materia, cioè così, immaginaria di importanza dello Stato, no? In cui praticamente nel caso di conflitto, per esempio tra ambiente, tra la tutela dell'ambiente e sulla caccia, fa prevalere la propria competenza sull'ambiente e io non sono un fattore della caccia, ma solo per dirvi un esempio, limita praticamente la competenza sulla caccia. Lo stesso vale sull'immigrazione, sul lavoro, in cui con la competenza dell'immigrazione limita le competenze delle province sul lavoro. Per esempio, una cosa che è stata lamentata negli ultimi mesi dagli artigiani, da tutte le nostre ditte imprenditoriali, costruttrici soprattutto, che con la materia contrattuale limita l'assegnazione dei lavori pubblici, che sarebbe esclusiva competenza delle province, e così via dicendo. Ecco, questo. Sì, poi c'è l'autonomia finanziaria che si deve tener conto, che è anche limitata naturalmente perché noi parliamo di federalismo fiscale che adesso è ancora una scatola vuota, io adesso vedo un decreto dopo l'altro e non trovo mai una cifra, siamo un po' curiosi di quanto sarà, perché noi sappiamo che abbiamo raggiunto un direi buon, anche sofferto compromesso con lo Stato, con l'accordo di Milano, no? In cui ci hanno tolto parecchie cose, le finanziamenti extra, mi pare che era anche giusto, dicendo beh, vi tenete però tutto su tutto il 90%, ma ci sono la maggior parte delle regioni italiane che non ricevono neanche il 40%, naturalmente hanno poche competenze, come per esempio il Veneto, no? Sul Veneto si discute se il 40-45% del gettito fiscale che va alla regione, però lo Stato è competente per scuola, per strade statali, tutto altro, cioè lo deve fare lui, però il ritorno è sempre più basso, no? Allora la domanda centrale del federalismo fiscale è: dal 100% di gettito fiscale, quanto andrà? Quale percentuale andrà alle regioni e ai comuni e quale sarà riservata allo Stato? E non si sa niente. Avevo letto in una bozza, ma quella era ancora del governo Prodi, dei professori che l'avevano preparata, che si diceva ma si potrebbe parlare del circa 40%, ma allora si capisce, no? E poi c'è la questione centrale del federalismo fiscale, che io non ho mai vissuto in tutta la mia vita politica, includo anche quella provinciale e regionale, che lo Stato, quando ha trasferito competenze alle regioni, abbia ridotto il suo apparato centrale. Se questo succedesse sarebbe una catastrofe, perché allora già avremmo un doppione, come hanno fatto su settori di competenze regionali, per esempio sullo sport, ma anche sul turismo e così via, che sono competenze esclusive regionali, in cui le regioni addirittura con referendum hanno poi l'appoggio del popolo, hanno poi poi abolito questi ministeri e lui lo hanno reintrodotti con dicasteri dipendenti dalla presidenza del Consiglio, solo per aggirare, ma questo sarebbe un doppione che rappresenterebbe lo Stato di molto. Ecco. Sì, qui alla fine ho fatto praticamente un paio di, come un fibromesso, come si dice, come un termometro che misura la temperatura. Ho detto quali sarebbero i classici gradi o i classici tipici tipologie che classificano un federalismo vero, e poi l'ho misurato con quello che la riforma ha fatto. E se arriviamo comunque che un paio di principi, come dicevo già all'inizio, sono stati attuati, altri grandi mancano, tra l'altro manca un disegno che stiamo discutendo adesso, non si sa se si va avanti perché la legislatura qui non si sa mai, si vive da un giorno all'altro, ma questo ormai si è abituati, io solo sono abituato dal 2001 quando sono stato eletto la prima volta grazie al vostro apporto, già un paio di settimane dopo si parlava di elezioni, poi è durato 5 anni, quella di Prodi sfortunata era naturalmente su gambe deboli, con un voto in più al Senato era un miracolo che reggeva 2 anni, e adesso vediamo come si assesta il sistema, perché la domanda è se Berlusconi supporterà o non sopporterà la golden share che si è preso liberamente Fini, quella di Bossi, la citata da, si è abituato da molto tempo, adesso c'è un altro che ha la golden share, che significa senza di me non hai la maggioranza, o si abitua o salta tutto, non si sa, al momento si va avanti, ecco. Però visto in questa luce, un paio di passi verso uno Stato più moderno sono fatti fatti, ma quello che manca per esempio è la Camera delle Regioni. Noi abbiamo un puro doppione tra Senato e Camera, in cui il Senato fa la stessa cosa come la Camera, mentre in altri Stati più moderni dovrebbe essere una partecipazione delle Regioni alla legislazione dello Stato, ma anche qui si deve stare attenti perché non vorremmo copiare l'Austria o la Germania, in cui questi Bundesräte valgono poco, meglio ancora la Svizzera, in cui sono eletti direttamente ma fanno parte dei consigli, da noi si vedrebbe provinciali, e sono anche delegati a in questo caso da noi sarebbero a Roma. Ecco, sì, in questo senso ho anche presentato un disegno di legge. Ecco, questi sono gli obiettivi. E qui sono, vi ringrazio per la vostra attenzione. Questo è il libro che vi dà un po' di chiarimento. Non c'è questo calcolo matematico, non spaventatevi, questo era quanto io ho fatto intellettualmente per farvi capire cosa si è fatto, come si è lavorato, incluso praticamente poi le interpretazioni finora date dalla Corte Costituzionale. E spero di aver dato un contributo per le scuole, imparare la vera nuova in autonomia e non quella superata. Beh, ci potrebbe dire è colpa anche dei parlamentari, certo è colpa dei parlamentari, l'ho detto all'inizio, si potrebbe riscriverla, però qui si deve trovare veramente un momento felice, favorevole. Quando c'è calma, quando c'è anche calma qui in regione, se non si discute di tabelle e di nomi, ma si trova un po' un consenso, una visione comune, qui c'è molto lavoro da fare, è quello l'auspicio con cui chiudo, ho aperto il mio lavoro politico e lo vorrei anche concludere con questa legislatura, è quello di dire nella nostra terra abbiamo l'opportunità di fare 2 cose, o dalle differenziazioni fare motivo di conflitto e esasperando le differenze e portando avanti con questo anche i nazionalismi che non si sanno mai dove portano, o si può fare, è quello che suggerisco, da questo una grande ricchezza, essere fieri di vivere in una bella terra con più gruppi linguistici, con più culture, e dare ai giovani una prospettiva europea, un orizzonte più largo e anche più strumenti di lavoro perché conoscono più culture e più lingue. Vi ringrazio molto. Io ringrazio ovviamente Oscar, tutti quanti, la casa editrice, e ci tenevo a fare questa presentazione per vari motivi, sia perché Oscar è ovviamente è anche un amico, è una persona con cui abbiamo fatto un percorso, direi anche insieme, insomma anche con ruoli diversi, ma è anche uno studioso riconosciuto della storia, delle nostre istituzioni, e ha con questo testo credo fatto e dato un contributo importante. L'ha detto lui stesso, noi oggi abbiamo a disposizione alcuni testi che elencano magari delle norme, ma effettivamente un testo molto anche leggero, perché insomma alla fine sono poche pagine, ma che in maniera efficace faccia il punto sulla nostra autonomia, forse mancava, e quindi il lavoro di Oscar va certamente a dare un contributo in questa direzione. L'autonomia che cambia, effettivamente la nostra autonomia è in cambiamento, si usa anche il termine autonomia dinamica, è effettivamente così, sia da un punto di vista formale che da un punto di vista materiale. C'è una direzione politica di fondo che nella nostra comunità dobbiamo prendere, questo dipende da tutti noi e io sono d'accordo con Oscar che al fondo noi dobbiamo decidere, i cittadini di questa terra devono decidere se vogliamo essere la più ricca, diciamo così, fra le piccole patrie etniche, un modello quello delle piccole patrie chiuse che in questo momento va di moda, di gran moda non solo in Italia ma in tutta Europa. L'idea, no, della chiusura, della divisione, della omogeneità etnica, della ricostruzione di un passato, oppure, quindi noi possiamo essere la prima, la più ricca fra queste piccole patrie, oppure possiamo essere la prima, la più innovativa fra i territori, ponti fra culture. Sia io ma anche Oscar propendiamo per questa seconda via, seconda strada, però bisogna rimboccarsi le maniche e lavorare, perché niente mai raggiunto per sempre. Noi abbiamo dei valori che sono ancorati nella nostra Costituzione, abbiamo uno statuto d'autonomia forte, ma dobbiamo decidere appunto in che direzione giocare anche questa nostra autonomia, questi nostri valori. E quindi questo dipende poi da quello che sarà l'evoluzione politica. Vedete che in questa terra ci sono anche passaggi contraddittori e non solo nella nostra terra, insomma in tutto il paese in questo momento c'è una grande confusione, per cui io condivido che poi per fare le riforme bisogna aspettare tempi più tranquilli, ma qui i tempi non diventano mai più tranquilli, anzi si va in un'altra direzione, però sono i cittadini appunto che possono decidere e che decideranno, e noi rappresentanti politici in che direzione andare. Questo libro fa il punto effettivamente dell'evoluzione della nostra autonomia, sia in termini formali ma anche materiali, questo è un dato importante, introducendo una serie di riflessioni effettivamente e tentando di spiegarle con un linguaggio il più possibile semplice e comprensibile anche ai nostri studenti, anche ai nostri cittadini, un cittadino che non deve essere necessariamente un esperto di diritto a livello universitario per comprendere, per apprendere, per interessarsi della nostra autonomia, credo sia molto importante. Cito solo due aspetti che mi sembrano significativi per dare anche il senso del lavoro che ha fatto Oscar, il bilinguismo per esempio. Il bilinguismo, il patentino, giustamente Oscar inserisce anche le novità della nuova norma di attuazione, quindi dell'equipollenza, delle certificazioni europee, che sono un passaggio importante, che voi non trovate appunto nei testi che raccolgono solo le norme statutarie, ma che in questo testo appunto, che è poco più ampio, però che è significativo perché contiene appunto questo passaggio. Un altro aspetto è quello per esempio dell'autonomia fiscale e finanziaria della nostra terra, anche questo è un capitolo direi in evoluzione, un'evoluzione infatti ha colpito appunto anche un palese contrasto con l'accordo, nel senso che tu citi l'accordo, però dici fra le righe che insomma è ancora da costruire, e questa è un po' la preoccupazione anche nostra in giunta provinciale in questo periodo, nel senso che il famoso accordo di Milano, che ha in qualche modo riscritto andando teoricamente nella direzione del federalismo fiscale anche le nostre, così, il nostro sistema di bilancio, è in continuo aggiornamento, perché poi scopriamo decreti, leggi, norme oppure anche solo annunci, ogni giorno siamo preoccupati dal capire se poi varrà quello, varrà qualcos'altro, e quindi tu lo scrivi. Quindi l'autonomia è in cambiamento, c'è una costruzione formale che si trasforma, ma è giusto conoscere i fondamentali ed è giusto fare il punto su questo cambiamento, e questo testo lo fa. Quindi questo testo per noi è importante e lo vogliamo appunto, lo vogliamo promuovere anche all'interno della nostra università, delle nostre scuole, come elemento di conoscenza per appassionare i nostri giovani e per fargli conoscere effettivamente la nostra autonomia che ci riguarda tutti, perché saremo tutti noi a dover decidere appunto in che direzione andare, se andare nella direzione del piccolo patrie etnico o della terra ponte fra le culture, e per farlo dobbiamo conoscere effettivamente la nostra autonomia, la nostra storia, per essere appunto cittadini attivi e consapevoli. Abbiamo voluto fare questa presentazione del libro, oggi non è previsto dibattito, ma vedo dalla vostra presenza insomma, che c'è un forte interesse, per cui ci possiamo da subito impegnare a organizzare sempre qui magari una serata di dibattito, Oscar, se tu sei disponibile, per entrare anche nel merito, per dare la possibilità. Oggi voleva essere solo la presentazione, ma ci impegniamo insomma a riprenderla l'abbiamo fatta qui alla Biblioteca Claudio Augusta, perché per noi questo è un luogo appunto di incontro, è una biblioteca ma è anche un luogo di riflessione, di scambio di idee, e quindi ci sembrava un luogo bello dove insomma lanciare anche questo messaggio di un'autonomia che cambia e di cui noi però vogliamo essere protagonisti. Quindi grazie ancora ad Oscar, grazie a tutti voi per esserci, e direi che ci rivediamo presto, magari anche per un dibattito approfondito quando avremo tutti letto poi il libro. Grazie.